Soundcheck. Il suono della musica di Gigi Telesco. Sì, cominci tu, no? Comincio io. Lo vuoi fare tu il programma? No, fallo tu, perché tanto per me se lo presenti tu va bene. Allora, siccome ho visto la scaletta, io mi domando perché. Posso fare soltanto un saluto? Ma fai il saluto, ma poi devi rispondere perché. Ok, va bene. Buon pomeriggio a tutti da Gigi Telesforo. Siete in contatto con il soundcheck di Radio 24 qui da casa Arbore, dove l'albero di Natale è sempre più alto, svetta, è sempre più alto, sempre più decorato, ma soprattutto oggi sono contento perché sotto ci sono già i regali. Bravo, li hai impacchettati tu personalmente? Assolutamente sì, con la carta stagnola dorata, perché mi piace molto il loro solo qua, eccetera. Io voglio cominciare perché, ho visto la scaletta, voglio sapere perché. Perché non mi regali questi dischi che sono così belli, che ascolteremo tra poco qui nella casa dove svetta l'albero di Natale, dove hai visto tra tutti i pendants dell'albero ci sono la trombetta, il clarinetto, l'arpetta. Sai che cos'è l'arpetta? Arpetta? Sì. Quale? Arpetta di Natale? Sì, è la piccola arpa, l'arpetta, cioè insieme alla trombetta, insieme al trombonetto. Perché non te li regalo questi dischi? Non posso regalarteli perché sono introvabili, sono questi CD, dischi che io, come te, acquisto quando vado in giro per il mondo. Sarà difficilissimo trovare altre copie di queste cose. E tra l'altro difficilissimo trovare il disco di una donna. Io mi domando sempre perché tu, che sei stato fidanzato più volte, non hai mai scelto Maria Muldaur come donna della tua vita. No, io l'avevo scelta, ma lei non ha voluto, perché eravamo troppo lontani. Maria Muldaur è una cantante del sud degli Stati Uniti, del Mississippi, che canta blues, che canta second line, che canta con un fascino straordinario, un po' jazzarolo e country anche, canta benissimo, è la figlia di Geoff Muldaur, e ha origini, pensate, un po' calabresi. Mi conquistò con la voce, ma anche perché mi disse che conosceva tutte le canzoni napoletane di Roberto Muolo. Pensa, una che sta nel sud degli Stati Uniti, eccetera, che solo perché ha origini lontanissime italiane apprezza moltissimo le canzoni napoletane di Roberto Muolo. Beh, la stessa cosa potrebbe dire lei di te, uno che è nato a Foggia e che conosce tutto il repertorio di New Orleans. Questo sì, certo, infatti è una cosa vicenda. Io glielo dissi, insomma, cercai di, si dice in termine tecnico, è di fare carte, ma non ci riuscì. La invitammo però a Doc, dove fece una sua performance come al solito di grande qualità. Ma io per quello te lo dico, perché mi ricordo che c'era un feeling particolare fra te e Maria Muldaur. Tra l'altro, quando con Marietta qui, quando una donna così, beh, tra l'altro anche prosperosa in questa copertina, intitola un disco Meet Me Where They Play the Blues, cioè incontriamoci, incontrami dove suonano il blues, perché, ma tu secondo me qualcosa hai fatto con lei? No, guarda, ho cercato in tutte le maniere di circuirla, eccetera, però eravamo troppo lontani, e anche delle cose, gli ho parlato biecamente del fascino del Mississippi, che mi sarei stabilito da quelle parti vicino alle Muddy Waters, che sarebbero le acque fangose del Mississippi, ma lei non c'è cascata, perché e quindi no, sto scherzando, però Maria Muldaur è veramente nel mio cuore, e quindi ha lo spirito quella roba, e poi una che intitola un disco così, dando al blues quello che è del blues, cioè la grandissima nobiltà. Non si può suonare il jazz, diffidate da quelli che suonano il jazz senza saper suonare il blues. Quelli lì non sono jazzisti. Well, I met a boy living down the street, kind of young but girls, he was sweet. And when he starts to rockin' me, he never wants to stop. And it makes this mama wanna blow her top. It ain't the beat, it's the motion that makes your mama wanna rock all night. It ain't the beat, it's emotion, it's the movement that gives it the sun. sì, la voce inconfondibile di Maria Muldaur, una stella di prima grandezza dal sud degli Stati Uniti, in questo brano intitolato It Ain't the Meat, It's the Motion, che è più o meno il concept sul quale si basa anche Renzo, cioè la carne non ha importanza a volte, ma ha importanza l'emozione, anche se poi a te piace mangiare e anche la carne e il cibo hanno la loro valenza. Beh, soprattutto se è carne che viene da New Orleans, che è legato, ho mangiato pure il coccodrillo, per la verità insomma non è una cosa straordinaria, è un misto tra pesce spada e vitella. Ecco, ne parliamo fra pochissimo qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Check, il suono della musica. Soundcheck. Il suono della musica. To miss those red beans, for that's where I left my heart. And there's one thing more, I miss the one I care for more than I miss New Orleans. Do you know what it means to miss New Orleans? Sai che cosa significa quando ti manca New Orleans? Questo è il significato di questo brano storico per la città di New Orleans, qui proposto da una band che è un'istituzione in quella bellissima città, ovvero la Preservation Hall Jazz Band, la jazz band fatta da anziani musicisti che quotidianamente suonano nella Preservation Hall. E abbiamo un esperto di Preservation Hall, non per l'età, ma io so che tutte le volte che vai a New Orleans un passaggio dalla Preservation Hall lo fai certamente. Allora scusami, posso fare una domanda? La domanda è precisa: dovendoci preparare per un viaggio in Louisiana, un viaggio a New Orleans, cosa dobbiamo mettere in valigia e cosa dobbiamo aspettarci dalla Louisiana? Allora, non dobbiamo mettere in valigia quasi niente, perché dobbiamo comprare lì le spezie, dobbiamo comprare lì i souvenir, dobbiamo comprare lì sale e pepe, quella roba lì, dobbiamo comprare tutte le attrezzature per il carnevale, che si può fare anche in Italia, ma con tutti i festoni, le cose eccetera di New Orleans, dobbiamo comprare lì le scatole di coccodrillo da portare qua, il ligheto, oppure le scatole in Lo scatolame con il coccodrillo dentro da mangiare. Sì, il coccodrillo defunto però. E poi insomma c'è molto da comprare di cose curiose, di souvenir di New Orleans. Poi naturalmente i dischi, poi naturalmente delle cose di musica, spartiti lontani. Io vado lì e mi porto la radio che registra le radio di New Orleans e poi quando le metto, le riproduco in Italia nella mia macchina, dico che prendo New Orleans con la macchina a degli incauti viaggiatori con me, perché sentono la radio di New Orleans, in realtà sono dei CD che io ricavo dalle radio che sento a New Orleans quando vado lì a registrarle. Insomma, è sempre molto carino. Ricordate che è una città dove c'è anche il casino, dove c'è stato Katrina, e sono andato lì con Franco Di Mara a fare un servizio di un'ora per il TG1. Katrina, l'uragano. L'uragano è stato dolorosissimo per me, sono andato sul posto dove si pensava che fosse morto Fats Domino, insomma tanti dolori, anche perché vedere la città, soprattutto la parte povera della città, completamente allagata e rovinata con le case dei musicisti, è stato un dolore molto forte per me. Però adesso è compensato dal fatto che la città si è assolutamente ripresa. Perché? Perché non si può stare lontani da New Orleans se è stato lì. Quindi gli americani, che sono ballerini, che se di solito cambiano città facilmente perché non gliene frega niente come noi di andare in un'altra città pur di guadagnare e vivere, sono tornati a New Orleans perché do you know what it means what to miss New Orleans? Tu lo sai che significa stare lontani da New Orleans? Ecco, e trovandoci a New Orleans, magari anche fuori dal periodo del Festival Jazz and New Heritage, che si svolge, come diceva ieri Renzo, a fine aprile, la prima settimana di maggio. Ecco, l'ultima settimana di aprile, prima settimana di maggio, comunque nel quartiere francese c'è musica per tutti i gusti e ci sono due locali in particolare da conoscere, perché resteranno nel vostro nostro cuore per sempre, e sono la Preservation Hall, dove suonano i vecchi musicisti di jazz, e suonano jazz proprio tradizionale, la musica di New Orleans, e poi il Super Club, il club dei club di New Orleans, che è il Tipitinas, dove i Neville Brothers hanno anche registrato dal vivo diverse pubblicazioni. E qui passiamo al sound tipico della famiglia Neville, che insieme ai Marsalis sono anche loro un'istituzione della città, Neville Brothers, in un classico di tutti i tempi, ovvero Aiko Aiko, al soundcheck di Radio 24. Well, if you don't like what the big chief say, you just jog and move feet out here. One more time, boy, jog and move feet out here. Jog and move feet out here. Be moving. Well, if you don't like what the big chief say. Soundcheck, il suono della musica. Di nuovo da Casa Arbore per il soundcheck di Radio 24. Renzo, allora, sei tornato dagli Stati Uniti, è stato pubblicato questo nuovo disco che abbiamo intitolato, no, sai perché? Perché tu mi avevi dato addirittura l'Advance CD, cioè il disco che arriva prima della pubblicazione, quasi non aveva un titolo. Come l'hai chiamato? My American Way, My American Way. Io volevo farlo americano, quindi sono canzoni, 15 canzoni bellissime italiane, tranne una, dove canta anche un certo Giorgetto adesso, si chiama Smoke and Lights. Le altre sono tutte italiane e il disco si chiama My American Way, e ci sono delle canzoni adattate al pubblico americano. Alcune, per esempio, come Il Materasso, cantata con Isabella Rossellini, è diventata una musica country, perché tra le mie debolezze c'è anche quella di guardare con attenzione la musica per semplice, la musica country che fanno, c'è quella buona e quella meno buona, ma siccome c'è un certo Willie Nelson che fa la musica country buona, oppure ce ne sono tanti altri, allora io ho fatto un arrangiamento di On the Mattress con Isabella che è proprio country, con una steel guitar che si ascolta per tutta la canzone. Allora, quando uscì Il Materasso, noi eravamo in onda con Quelli della Notte, quindi Il Materasso, questa canzone, aveva quasi un senso per tutti, proprio perché era la sigla di chiusura del programma. Ma in questa versione americana, gli americani che cosa possono capire? Di che cosa parla il testo? Hai fatto l'adattamento alla lettera o ha un significato recondito o no? No, ha un significato molto recondito, cioè the best place to love on the mattress, è il posto migliore per fare l'amore. Vengono elencati da me e da Isabella i posti dove si fa l'amore scomodo, anzi non viene bene. Sotto la neve si raffreddano le parti, nel bosco ci sono gli insetti, sulla spiaggia la sabbia si intrufola là dove non si deve intrufolare. Nell'ascensore vestirsi e svestirsi ci vuole una rapidità pazzesca, e così sulla, capito? E quindi il miglior posto per fare l'amore, tutto sommato, soprattutto quando è un'età che non è più eccetera, è proprio on the mattress, sul materasso, the best place to love. Io credo che sia anche, potreste fare benissimo un videoclip, secondo me, con un videoclip te e Isabella Rossellini che cercate il posto, girate per trovare il posto migliore dove fare l'amore, potrebbe essere un successo. Ma secondo te ha avuto tante opportunità, che insieme abbiamo fatto tanto l'altro domenica, non di fare l'amore, questa, no, questa è una cosa che dovrei riservare a una, ma si può trovare una comparsa con la quale tentare di fare una cosa. Naturalmente devi fare un po' di provini prima. Devo fare dei provini, insomma, biondo e bruno, e vedere un po'. Ma gli americani capiranno il doppio senso? No, lo hanno già capito e ridono molto. Purtroppo, se non si sa l'inglese, alla radio non si possono mettere i sottotitoli. In televisione l'abbiamo fatto, alla radio i sottotitoli non si possono mettere, ma sforzatevi e cercate di capire. Ve l'ho spiegata la canzone. Va bene, ascoltiamo che cosa hanno combinato insieme Renzo Arbore e Isabella Rossellini qui al soundcheck di Radio 24. The elevator, yes, but it's hard to get undressed, and it's gonna stop. But on the mattress, the materasso, butts on the mattress. No better place to love. Termina qui l'appuntamento con il soundcheck di Radio 24. Grazie Renzo per l'ospitalità. Io tornerò a trovarti prestissimo. Dedicheremo puntate di musica a altri generi che a noi piacciono. Lo faremo sicuramente. Intanto ti auguro in bocca al lupo con la pubblicazione del disco. So che sei pronto per fare dei concerti. Vuoi lanciare degli appuntamenti fra dicembre e gennaio? Beh, vado a Torino, faccio due serate al Fieri, come di solito faccio, insomma, poi vado in giro per il mondo, vado anche a Praga, poi vado al Capodanno non so dove, insomma, e poi se vieni a trovarmi a Natale ti faccio sentire una canzone di Natale che non ha mai sentito nessuno, che non è mai uscita su disco, ma che è la mia canzone di Natale, Blue Christmas. Ma ti vesti da Babbo Natale? E come no, non vedo l'ora. Ho il cappello mobile con la batteria pila che gira con la manovella. L'albero parte con te in tournée, no? Sì, certamente sì. Quindi ci vediamo. Anzi, me ne approfitto attraverso Radio 24. Voglio essere il primo a farvi gli auguri di Buon Natale. Buon Natale a tutti! Grazie a Renzo Arbore. Arrivano Wynton Marsalis e Bobby McFerrin per chiudere questo appuntamento con il soundcheck di Radio 24. Buona giornata e buona musica a tutti da Gigi Telesforo. Soundcheck. Il suono della musica.